D'Agostino dal vivo questa sera sabato 11 febbraio 2006 ore 21 discoteca Nachtschicht Linz im Bakerfeld 1 località Leonding Austria. Ecco qua, va. Numero 14. Ma che è? Cielo, artista non pervenuto. Sintonizziamo nella frequenza. Sì. Capitolina. M2O. Il brano che vuoi ascoltare il sabato pomeriggio nel cammino di Gigi D'Agostino. Vai su www.gigidag.com. e fai la votazione. E fai la votazione. Fai una buona azione. E fai la votazione. Fuck like Cantina did on why your llamas in your bed with your head. Fuck like Cantina did on why your llamas in your bed with your head. Dai e poco sta cassa. Fuck like Cantina did on why your llamas in your bed with your head. Fuck like Cantina did on why your llamas in your bed with your head. Don't want your llamas in your bed with your head. Don't fuck like Cantina did. Don't want your llamas in your bed with your head. Dal lunedì 20 febbraio il mio passo sarà inciso. Questa radio è M2O. Questa radio è M2O. Mi ha dato un compito preciso. Fuck like Cantina did on why your llamas in your bed with your head. Fuck like Cantina did on why your llamas in your bed with your head. Ecco che sta arriva, dai. Andiamo. Forza. Sai un picci ce fai tu con i mischi sonori, sì. Hai visto dall'altra parte fanno tutte cose veloci, invece qui si fa lento, violento, quello vero. Violento, violento, violento, violento. Numero 5. Lento, violento, violento, violento. Luce. Dottor Dan. Ciò che penso è molto intenso. Al nuovo buio io sono propenso. Perché dal buio sono nato e grazie a lui ho camminato. Luce che si riproduce grazie a quel buio che la conduce, nasce dal buio e ci conduce, sembra banale ma è reale. Luce che si riproduce grazie a quel buio che la conduce, nasce dal buio e ci conduce, sembra banale. È molto intenso. Al nuovo buio io sono propenso. Perché dal buio che sono nato e grazie a lui ho camminato. Luce che si riproduce grazie a quel buio che la conduce, nasce dal buio e ci conduce, sembra banale ma è reale. Luce che si riproduce grazie a quel buio che la conduce, folclorista. Stai a capire? Bella Gigi. Numero 3. I wonder why. Gigi D'Agostino. Now you're sleeping way in your bed. I'm here, I'm thinking what you said a long time ago. Pubblicità, tararatata, pubblicità, tararatata, pubblicità. c'è Gigi, c'è Gigi, c'è Gigi D'Agostino, c'è Gigi D'Agostino, domani è un bel mattino, c'è Gigi D'Agostino, domani è un bel mattino. Appiccia un po' sta musica. Cammino del Gigi D'Agostino. Bogacci via questo? Sì, sì. Ti sei perso un'altra volta? C'è Gigi D'Agostino, fermati e ascolta. Mano. per folclorista. Stai a capì? L'elettro show di Gigi D'Agostino dal vivo venerdì 17 febbraio 2006 ore 23 discoteca Symbol strada statale Asti Mare 11 località Bigliano d'Asti Asti. Sogno è il tuo destino, il cammino di Gigi D'Agostino. Dammi una stoppata, va. Ma che sta a fare? Ma che sta a giocare qua? Together another shots today. The time to raise the cost. gigidag.com. Pom pom porom porom pom. Punto com. Pom pom porom porom pom. Fai una buona azione. Fai la votazione. Quando non hai un cazzo da fare, non preoccuparti delle zanzare. Vota la canzone che vuoi ascoltare. Basta un tuo gesto, basta cliccare. Vai nella homepage www.gigidag.com. Pom pom porom porom pom. Fai una buona azione, fai la votazione. Basta parola, che il tempo vola. M2O, musica allo stato puro. Se ripete sicuro, te dico fermate. Ecco qua, va. Numero 30. Más fuerte. Uomo suono. Settimana, vota il brano che vuoi ascoltare il sabato pomeriggio nel cammino di Gigi D'Agostino. Vai su www.gigidag.com e fai la votazione. Bello questo!